La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 13 novembre 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Un saluto a tutti coloro che ascoltano la puntata in onda il sabato mattina e un saluto a tutti coloro che ascoltano la replica del mercoledì. Cari red ascoltatori, in questa puntata torniamo ad occuparci di argomenti di fisica e torniamo ad occuparci di questi argomenti per un report uscito qualche giorno fa su Science Express e in uscita il 19 di novembre 2010 proprio sulla prestigiosa rivista Science, in cui si parla di un sensore ottico per misure ad alta sensibilità. Di questo sensore ne parleremo col primo autore di questo report, si chiama Gianluca Gagliardi ed è un ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche dell'Istituto Nazionale di Ottica di Napoli. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Gianluca, se hai ascoltato le puntate online ti sarai reso conto che all'inizio abbiamo 100 parole per introdurre, per descrivere l'argomento. Ecco, in 100 parole, riusciresti a descrivermi il contenuto di questo paper e perché è così importante aver creato un sensore così preciso e così ad alta sensibilità? Beh, dunque, per riassumerlo in parole semplici potrei dire che si tratta di un lavoro, di un lungo lavoro di messa a punto di un sensore di deformazione che lavora sia per misurare deformazioni molto lente che per misurare quelle che potremmo chiamare vibrazioni, okay? All'interno di qualsiasi struttura utilizzando una fibra ottica standard di quelle che diciamo possiamo immaginare vengono utilizzate per le telecomunicazioni, e questo sensore in sostanza ha dimostrato di essere un oggetto estremamente sensibile appunto per misurare piccolissime variazioni di lunghezza lungo la fibra stessa, e la particolarità diciamo del lavoro che abbiamo svolto è che questo sensore ha raggiunto una sorta di limite intrinseco di sensibilità, cioè un limite intrinseco di vibrazione legato a effetti puramente termici all'interno della fibra. Gianluca, a questo punto ti ringrazio per la sintesi, ci fermiamo un attimo, ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale. Poi torniamo in studio, nella prima parte della trasmissione come al solito daremo un pochino l'introduzione, il glossario degli argomenti che andremo a trattare nella seconda parte della trasmissione, e nella seconda parte della trasmissione andremo a trattare i contenuti di questo report e soprattutto andremo a capire come è strutturato questo sensore. A dopo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Wake up to life, get up, move out, find your place on the subway train. From 9 to 5, from 2005 till 2053. New day, no way will I break to a rhythm. What will you? Bentornati in studio, cari radioascoltatori, qui all'ascolto di Caccia Fotone. Per coloro che non lo sapessero, vi do due indicazioni su come comunicare con Caccia Fotone. www.cacciafotone.it, dove potete trovare il link per iscrivervi al podcast di Caccia Fotone, e cacciafotone@gmail.com per comunicare con la redazione. Per coloro invece che si fossero messi all'ascolto solo ora, ricordo che in questa trasmissione stiamo parlando di argomenti di fisica, in particolar modo stiamo parlando di un sensore ottico, e meglio di un report uscito qualche giorno fa su Science Express, e di questo argomento ne stiamo parlando col dottor Gianluca Gagliardi, primo autore di questo paper, ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche dell'Istituto Nazionale di Ottica di Napoli. Gianluca, all'inizio hai descritto in 100 parole il contenuto di questo paper. In questo paper si parla di un sensore ottico ad alta sensibilità. Ora, visto che all'inizio della trasmissione, nella prima parte, diamo un pochino l'elenco degli argomenti che poi effettivamente tratteremo nella seconda parte della trasmissione, la prima domanda che ti voglio fare è: che cos'è un sensore? E la seconda è: che cos'è una fibra ottica? Dunque, un sensore è un dispositivo, un oggetto, un sistema che è in grado di misurare una determinata grandezza fisica o anche una grandezza di interesse, ad esempio una grandezza chimica. Quindi si potrebbe trattare di un sensore di, appunto, come nel nostro caso, di deformazione meccanica o di temperatura o di accelerazione o di velocità e via dicendo. Una fibra ottica è essenzialmente una guida d'onda, cioè una guida di luce all'interno della quale la propagazione della luce avviene in modo guidato, confinato nello spazio. Quindi una guida a fibra ottica in sostanza, nella pratica reale, consiste in un tubicino di vetro all'interno del quale la luce viene introdotta a un estremo e si propaga per distanze molto lunghe senza attenuarsi, in sostanza, attenuandosi comunque pochissimo, e uscendo dal lato opposto, quindi senza mai uscire dalla guida stessa. Questo, diciamo, che apre una serie di prospettive. Una di queste è la telecomunicazione in fibra, che è parte dei sistemi di telecomunicazioni attuali. Gianluca prima ci ha introdotto qualche tipo di sensore, ci ha detto che esistono dei sensori di deformazione, dei sensori acustici. Però entrando un attimo nello specifico, effettivamente che cosa misurano questi tipi di sensori? Esistono moltissimi tipi di sensori, ovviamente. Direi che la gran parte di questi di fatto misura poche grandezze fisiche. Poi ce ne sono altre che sono correlate a queste grandezze fisiche. Faccio un esempio. Un sensore che è in grado di misurare una deformazione, una variazione di lunghezza, può essere utilizzato per misurare tutta un'altra serie di grandezze fisiche, la velocità, l'accelerazione, le vibrazioni, ok? Che in realtà sono sempre variazioni di lunghezza, o anche addirittura una variazione di temperatura. Quindi, diciamo, in qualche modo, attraverso una serie di fenomeni fisici è possibile correlare alcune poche grandezze fondamentali, come il tempo e la lunghezza, ad altre grandezze fisiche, ed è questo quello che molti sensori fanno, e direi che quasi tutte le grandezze di interesse in ingegneria, nell'ingegneria aerospaziale, in quella civile o anche nella fisica stessa, nella ricerca di base, vengono effettuate utilizzando dei sensori. Anche la luce stessa può essere vista, può essere misurata, la sua intensità, con un sensore, ok? Anche se in quel caso, diciamo, in genere si utilizzano sensori di tipo diverso. Un sensore in fibra è proprio un dispositivo che è in grado di misurare, tra le varie cose, una deformazione meccanica, e quindi, appunto, poi può essere messa in relazione ad altre grandezze. Gianluca, ti faccio l'ultima domanda che poi fa da preludio agli argomenti che tratteremo nella seconda parte della trasmissione, dove effettivamente andremo a spulciare il contenuto del report pubblicato su Science Express. All'inizio del vostro report voi fate un paragone fra il vostro sensore e i sensori che rilevano le onde gravitazionali. Giusto per essere chiari, le onde gravitazionali sono l'impronta che lascia la forza gravitazionale nell'universo. Ora, visto che la differenza c'è ed è sostanziale, qual è la differenza fra i due e soprattutto perché ci avete tenuto a marcare la differenza? Dunque, mi fa piacere che tu mi abbia fatto questa domanda, perché In realtà è giusto fare una precisazione su questo aspetto. I nostri sensori non sono sensori di onde gravitazionali. I sensori di onde gravitazionali sono degli oggetti, degli apparati, non dei sensori. Infatti sono tipicamente definiti rivelatori di onde gravitazionali o sistemi di rivelazione o antenne gravitazionali, che sono utilizzate per misurare effetti assai raffinati, cose estremamente raffinate. Quindi si tratta di, della ricerca che si fa a terra nel campo dell'astrofisica e sono sistemi molto più sofisticati di un sensore in fibra, con sensibilità enormemente maggiori, ma sono sistemi, appunto, come dicevo, molto complessi, dimensioni gigantesche e dedicati alla ricerca di base, non ritagliati per le applicazioni. Okay? Quindi i migliori sensori gravitazionali che esistono in letteratura hanno una sensibilità che è dell'ordine di almeno un miliardo di volte migliore del nostro sensore. Il nostro sensore si colloca proprio nel gap, nel divario che c'è tra i rivelatori di onde gravitazionali, che sono sistemi estremamente sofisticati dedicati alla ricerca di base, e i sensori di tipo più commerciale che esistono appunto già disponibili in commercio e che si basano su diversi principi, da quelli puramente elettrici a sistemi ottici simili ai nostri. Noi abbiamo fatto, io credo, un passo in avanti molto importante, perché abbiamo migliorato la sensibilità dei sensori in fibra ottica, tra virgolette, convenzionali, utilizzando un sistema nuovo per interrogarli, e l'abbiamo migliorata di più di un milione di volte. Quindi diciamo che questo tipologia di sensore apre delle prospettive nuove per le applicazioni. Questa è la cosa, diciamo, l'aspetto più interessante. Perfetto Gianluca, sei stato chiarissimo. Allora, a questo punto ci andiamo ad ascoltare prima un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio, e quando torneremo in studio parleremo effettivamente di che cos'è questo sensore di cui abbiamo accennato nel corso della trasmissione. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così... Giant baby, you live to take control. You took our bodies and our souls. You patted on my baby, but now you've lost control. And there is nothing you can do. What I choose. University, cashed in our dreams and hopes, left our identity a ghost. The facts are brutal, baby, nothing will ever last. Just keep on living in the past. What I choose. E bentornati in studio, cari radioascoltatori, qui all'ascolto di Cacciafotone. Per tutti coloro che si fossero messi all'ascolto solo ora, in questa trasmissione stiamo parlando di fisica, o meglio stiamo parlando di un sensore ottico ultra preciso sviluppato da un gruppo di 5 ricercatori italiani. Questo sensore ottico è stato descritto all'interno di un report uscito qualche giorno fa su Science Express, e noi al telefono abbiamo il primo autore di questo report, che si chiama Gianluca Gagliardi, è un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell'Istituto Nazionale di Ottica di Napoli. Ecco Gianluca, all'interno di questa trasmissione vogliamo fare un po' un esperimento di comunicazione per tutti coloro, soprattutto, che stanno ascoltando la trasmissione tramite il web oppure che hanno un computer davanti. Il post che descrive questa trasmissione ha una piccola immagine. Ora, se ci cliccate sopra, si apre un'immagine un pochino più grande. Quell'immagine è effettivamente la descrizione del sensore, cioè di come funziona il sistema che poi è stato sviluppato e stato descritto all'interno di questo report. Il sito ovviamente dove andare a recuperare questa immagine è il solito www.cacciafotone.it. Ora Gianluca, a te la parola. Che cosa descrive questa immagine? Dunque, la figura descrive l'apparato utilizzato per le misure di deformazione nel nostro laboratorio ed è diviso per blocchi. C'è un'unità sensore che vedete qui nel racchiuso dalla linea tratteggiata, collegato a una sorgente laser che vedete qui in alto a destra, diode laser. La radiazione laser, cioè la luce del laser, viene trasmessa attraverso una fibra che è sono queste lineette rosse che vedete nella figura e arriva al sensore. Parte della luce che viene riflessa dal sensore, quindi dalla fibra del sensore, viene raccolta da una fibra e inviata a un cosiddetto fotorivelatore, cioè l'occhio che vede l'intensità luminosa riflessa dal sensore. Tutto il resto dei blocchi che vedete nell'apparato sono dispositivi elettronici essenzialmente. Un dispositivo che consente di riferire la lunghezza d'onda del laser utilizzato per vedere, diciamo, per interrogare il sensore ad un riferimento di frequenza, un cosiddetto pettine ottico di frequenza o pettine di frequenza ottica, come dir si voglia, e una serie di altri sistemi che consentono al laser di seguire in modo attivo e continuo la storia, diciamo, del sensore, cioè di fare quello che si chiama un tracking attivo, cioè di restare agganciato e vedere continuamente nel sensore cosa avviene, cioè se avvengono o meno delle deformazioni meccaniche. Gianluca, a questo punto ti faccio la domanda più fondamentale della trasmissione, forse anche più corta della trasmissione, ma è la domanda che richiede più attenzione. Come è strutturato questo sensore ottico? Dunque, il sensore è quello che si definisce, diciamo in gergo, in fisica, un risonatore in fibra ottica, o meglio una cavità ottica in fibra. Il sensore consiste in un tratto di fibra ottica convenzionale, cioè esattamente uguale a quelle utilizzate per le telecomunicazioni, cioè di un materiale che è detto silice, un vetro, essenzialmente una sostanza vetrosa, ha uno spessore di 125 micron, all'interno di una parte più, diciamo, più piccola, di 9 micron di diametro, resta confinata, si propaga confinata alla luce della sorgente laser, e a distanza di 10 cm l'uno dall'altro, lungo questo tratto di fibra, sono disegnati, sono scritti internamente alla fibra, con un metodo che, diciamo, non sto qui a descrivere perché riguarda, diciamo, un'altra cosa, sono disegnati due specchi interni alla fibra. Gli specchi e il tratto di fibra tra di loro costituiscono quello che si chiama appunto un risonatore ottico. Cos'è un risonatore ottico? È un dispositivo all'interno del quale la luce può essere iniettata e rimanere confinata al suo interno per un tempo molto lungo. Questo vuol dire che qualunque effetto di tipo meccanico, termico, che agisce sulla fibra tra i due specchi viene amplificato enormemente. E viene amplificato di un numero di volte pari a quello che si definisce coefficiente di qualità del risonatore. Quindi quanto più è alta la qualità del risonatore, cioè quanto più riflettono gli specchi che lo costituiscono, tanto più è alto il fattore, diciamo, l'effetto di amplificazione che dicevo all'inizio. Questo vuol dire che se io sono in grado di disegnare degli specchi interni alla fibra che riflettono molto, sono anche in grado di vedere effetti molto piccoli, minimi, di deformazione della fibra, e quindi questo vuol dire rendere più sensibile il risonatore a deformazioni meccaniche, ad esempio. La sensibilità, diciamo, del nostro sistema non dipende solo dal sensore, ma dipende soprattutto, e questo è quello che abbiamo dimostrato nel nostro lavoro, dal sistema di, come si dice, di lettura, di interrogazione, cioè dal modo in cui viene estratta l'informazione sulla deformazione utilizzando la luce. Perché ricordo che il sensore non viene toccato, il sensore è completamente passivo, lui sta lì adagiato all'interno di una scatola che lo isola dall'ambiente esterno. Utilizzando un piccolo cristallo, noi eccitiamo la deformazione e la misuriamo utilizzando la luce che ci torna indietro dal risonatore. e quindi è la luce solo che vede questa deformazione. Ecco, la purezza della luce che viene inviata, quindi la stabilità, come si dice, in lunghezza d'onda della sorgente laser che genera questa radiazione luminosa, è uno dei fattori cruciali per misurare piccole deformazioni. Quanto più è pura questa luce, per essere, diciamo, per utilizzare un termine semplice, tanto più è piccola la deformazione che uno può misurare. Ed è qui, insomma, che entra il discorso che facevo all'inizio, cioè del pettine ottico di frequenza che viene utilizzato per rendere più stabile la sorgente laser. Quindi effettivamente nel sensore viene fatta una conversione delle quantità e un po' la purezza del segnale, come segnalato nel vostro paper, dipende anche e soprattutto dagli specchi della fibra. Ricordo che gli specchi sono interni alla fibra, non sono esterni, quindi non si vedono. La fibra è del tutto indistinguibile da una fibra utilizzata per le telecomunicazioni. È un pezzo di fibra ottica e basta. E quindi questo è un grande vantaggio, perché vuol dire che io posso prendere questo pezzo di fibra, che è spesso come un capello, e incollarlo, cementarlo, inserirlo in qualunque tipo di struttura, in qualunque tipo di materiale, anche in condizioni di temperatura aggressive, ecco, nei riguardi della fibra stessa. Cioè potrei metterlo in un sistema che lavora ad alta temperatura, potrei metterlo in un sistema che lavora a bassa temperatura, e così via. Dicevo, diciamo, il fattore di amplificazione di cui parlavamo all'inizio dipende da quanto è alta la qualità di questo risonatore, cioè da quanto bene la luce resta confinata al suo interno. Però per vedere, per raccogliere i benefici di questo sensore, è necessario che la luce che arriva sia particolarmente pura. Quindi Gianluca, a questo punto abbiamo dei punti fermi. Abbiamo la fibra ottica, all'interno della fibra ottica abbiamo degli specchi, e all'interno della fibra ottica passa un raggio laser molto puro. Che cosa andrà a calcolare con tutto questo sistema, questo rivelatore? Lui misurerà tutte le deformazioni che avvengono, che agiscono sulla fibra che sta tra i due specchi, che si trova tra i due specchi. Quindi questo vuol dire che non misurerà soltanto le deformazioni che possiamo immaginare dovute ad esempio a una dilatazione termica o a una lenta deformazione, ma potrebbe misurare anche deformazioni veloci, che vuol dire ad esempio se c'è un'onda acustica che si propaga nell'intorno della fibra, la fibra la raccoglierà e la trasmetterà, diciamo, attraverso la luce al sistema di lettura. Quindi vuol dire in sostanza che il sistema è un sismometro, probabilmente, diciamo, lo potremmo definire anche un sismometro, è un dilatometro, ma è anche un vibrometro, un accelerometro, cioè si presta alla misura di deformazioni lente e deformazioni veloci, e quindi può essere utilizzato per misurare un numero elevato di grandezze fisiche. Ecco Gianluca, mi hai anticipato la domanda, perché in realtà ti volevo chiedere un pochino questo. Le applicazioni di questo sensore sono tipicamente terrestri oppure, come dicevamo prima, può avere delle applicazioni aerospaziali? Ecco appunto, le applicazioni nel campo della ricerca, intendo dire applicazioni pratiche per misurare altre grandezze fisiche, potrebbero essere nel campo della geofisica, della sismologia, ma anche della gravimetria, perché è abbastanza evidente che se il sensore viene combinato, viene accoppiato ad una massa, la sua deformazione può essere correlata a una variazione del campo gravitazionale, quindi uno potrebbe in teoria disegnare una tipologia nuova di gravimetro che ha tutta una serie di ricadute, ad esempio anche nel campo della geofisica, o ancora, come dicevi tu, in campo aerospaziale, perché un sensore in fibra, se si presta ad essere integrato in una struttura più complessa come quella di un aeroplano o di un velivolo spaziale, a quel punto è possibile misurare gli stress meccanici e quindi prevedere ad esempio la rottura o, diciamo, il danno all'interno di una struttura complessa prima che questa avvenga in maniera irreparabile, insomma, prima che questa sia completa. Lo stesso esempio può valere per una struttura civile, un ponte, un'autostrada e via dicendo. Quindi, diciamo, è ovvio che le applicazioni possono essere molte. In realtà esistono già dei sistemi in fibra ottica utilizzati per questo tipo di applicazioni. Però, avendo una sensibilità molto più spinta, si può pensare anche ad applicazioni nuove, oppure si può pensare a misurare nuove grandezze fisiche. Gianluca, ovviamente di domande da farti ne avrei tantissime, però mi limito per via del tempo. In che intervallo di frequenze reagisce questo sensore? Il sensore sicuramente risponde molto bene nell'intervallo che va da circa un hertz fino a qualche kilohertz, quindi in tutto il range acustico e il range infrasonico, o in gran parte il range infrasonico. Faccio giusto una nota, diciamo, range infrasonico è quello che è è al di sotto di 20 Hz, e il range acustico è quello che in genere va da 20 Hz fino a qualche kilohertz, a qualche decina di kilohertz. In realtà le possibilità del sensore sono quelle di raggiungere anche il range ultrasonico, cioè quello non udibile dall'orecchio umano, perché il sensore è molto piccolo e quindi è intrinsecamente molto, diciamo, sensibile anche a deformazioni molto veloci. Direi che la limitazione principale viene invece più alle basse frequenze, cioè al di sotto di un hertz, dove in genere entrano in gioco effetti termici difficilmente, diciamo, limitabili, o comunque in parte limitabili, ma comunque restano lo scoglio principale, senza contare che c'è il rumore sismico, che è proprio quello che in genere è concentrato alle basse frequenze. Gianluca, a questo punto arrivo con l'ultima domanda della trasmissione, la domanda più personale che ti ho fatto fino ad ora. Se dovessi ricordare un aneddoto o una cosa nell'intervallo di tempo, per così dire, che ha coperto il momento in cui avete fatto effettivamente la ricerca, il momento in cui avete scritto questo paper, che cosa ricorderesti di più e che cosa ricordi di più? Diciamo che me ne tornano in mente due, mi prendo lo spazio di due ricordi. Il primo, che riguarda l'esperimento, sono i tempi lunghissimi dell'acquisizione dati che abbiamo passato io e le persone, diciamo, i coautori dell'articolo, per stimare per capire quali erano le prestazioni del sensore, quindi il tempo che abbiamo passato per aspettare le cosiddette acquisizioni dei dati e per l'analisi dei dati, che è stato piuttosto lungo, e a volte giornate intere, diciamo, per acquisire un dato definitivo. E l'altro invece, lungo la stesura dell'articolo, che mi ricordo è stato il momento in cui abbiamo realizzato che la sensibilità, o meglio, che il nostro livello di rumore tornava grosso modo, anzi direi quasi perfettamente, con quello che ci aspettavamo sulla base della teoria del rumore termico, perché esisteva già una teoria e era quella con cui ci saremmo dovuti confrontare. Quindi questo era come dire, già un segnale del fatto che l'articolo aveva delle caratteristiche particolari, che quindi, ad esempio, si poteva prestare a una pubblicazione su Science. Ebbene, con questa tua risposta si conclude questa trasmissione di Cacciafotone. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo per coloro che ascoltano la trasmissione il sabato, oppure mercoledì prossimo per coloro che ascoltano la replica. Stessa ora, stessa radio e stesso fotone, e l'augurio è sempre il solito. Buona scienza a tutti. Grande Giove.